A bordo campo di Dario Ricci. La nazionale italiana si appresta a giocarla in Calabria, forse la partita più importante della sua storia. Gli azzurri di Prandelli, di ritorno dall'amichevole di Wrocław in Polonia, domenica 13 novembre, si alleneranno a Rizziconi nella piana di Gioia Tauro. Il campo d'allenamento è costruito su un terreno che la magistratura ha confiscato nel 2003 all''Ndrangheta. Don Pino De Masi, che rappresenta l'associazione Libera sul territorio, manda avanti su quel campo una scuola calcio frequentata da 100 ragazzi tra i 6 e i 14 anni. E con gli azzurri ci sarà anche il calabrese Rino Gattuso, che ha accettato con entusiasmo l'invito della Federcalcio. E noi questa storia oggi vogliamo un po' raccontarvi, perché chiaramente l'arrivo degli azzurri scatenerà e scatena entusiasmi, attenzione mediatica, eccetera eccetera, ma quello che accade tutti i giorni sul campo di Rizziconi è sicuramente più importante e degno di essere raccontato. Don Pino De Masi, benvenuto a Radio 24 e a bordo campo. Eccoci, buongiorno. Don Pino, allora immagino insomma grandi preparativi per i suoi ragazzi in vista della visita degli azzurri. Sì, c'è una grande attesa qui nella piana di Gioia Tauro per questo evento, perché si tratta di un evento, perché più che per giocare qui gli azzurri saranno per una presenza simbolica molto importante. Ecco, noi ci troviamo nella piana di Gioia Tauro, una terra segno di contraddizione, dove c'è presente tantissimo di 'Ndrangheta, ma c'è anche presente tanto di positivo. Mi riferisco alla cooperativa Valle del Marro, ma mi riferisco anche a questi ragazzi di questa scuola calcio guidata da Renato Naso, che io ho semplicemente incoraggiato alla nascita nel 2007, che giocano su questo campetto costruito su un terreno confiscato. La storia di questo campetto è emblematica delle contraddizioni che vive questa terra. Ecco, ce la racconti un po'. Sì. Ecco, Rizziconi è un paesino di 8.000 abitanti nel cuore della piana di Gioia Tauro. E come ogni cittadina della piana, un po' della Calabria, in ogni cittadina c'è il suo boss. Qui il boss locale si chiama Teodoro Crea. Ebbene, Teodoro Crea aveva alcuni terreni, e questi terreni sono stati dapprima sequestrati e poi confiscati. Volevano fare su quei terreni una discarica, ma non ci sono riusciti, perché tutto comincia il 31 luglio del 2000 con lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione della criminalità organizzata. Il prefetto di allora, anzi il Ministero degli Interni, manda come commissario al Comune di Rizziconi Francesca Crea, Maria Laura Tortorella e Salvatore Fortuna. Immediatamente iniziano le pratiche perché quei terreni sequestrati vengano confiscati definitivamente e assegnati al Comune. E così avviene l'11 gennaio del 2002. Ma loro non si fermano qui, decidono che quei terreni devono diventare un simbolo del riscatto di quella cittadina e un servizio ai giovani. Per cui ce la mettono tutta, costruiscono con fondi del comune un campetto di calcetto. I lavori del campetto, per un importo di 200 milioni di lire, vengono assegnati nell'ottobre del 2002 e finiti in appena 7 mesi. Così nel maggio del 2003 avviene l'inaugurazione. Erano presenti Don Luigi Ciotti, politici nazionali e regionali, prefetto, questore, magistrati, responsabili delle forze dell'ordine. Erano presenti soprattutto i bambini di Rizziconi, i bambini delle scuole. Ricordo che allora organizzammo una spaghettata con i prodotti ottenuti sulla Valle del Mare e sugli altri terreni confiscati delle altre cooperative. Ma il spaghetto fu più buono, Don De Masi, sì, vero? Sì, perché nei mesi successivi nessuno sa andare a giocare. Addirittura nell'agosto del 2004 il campetto viene danneggiato seriamente, poi con atti continui di vandalismo, perché quel bene strappato al boss non doveva essere utilizzato da nessun altro, neanche dai ragazzini del paese. Ma l'ironia della sorte vuole che nel febbraio del 2006 il comune viene commissariato nuovamente in seguito alle dimissioni della maggior parte dei consiglieri comunali, e il prefetto di allora, il superprefetto Luigi De Sena, invia 2 dei 3 vecchi commissari, invia la Francesca Crea e la Maria Laura Tortorella. I due si impegnano per l'immediato ripristino dell'impianto, cosicché il campo viene di nuovo inaugurato nel maggio del 2007 con una partita di calcio che allora era c'erano due squadre capitanate, una da Luigi Ciotti e l'altra dall'allora presidente della Commissione parlamentare antimafia Francesco Forgione. Però con un lavoro di natura culturale abbiamo iniziato, io personalmente, anche tutta un'attività per aiutare le persone del paese di Rizziconi a utilizzare il campo. Così Renato Naso ha fondato lì una scuola di calcio che oggi continua e dove 120 ragazzini tra i 6 e i 14 anni non tirano solo calcio al pallone, ma coltivano i loro sogni di una terra libera e liberata dalle mafie. Quanto è difficile fare un gol in Calabria, mi viene da dire Don De Masi, quanto è difficile? Difficile, ma vorrei sottolineare che il positivo che c'è in questa regione, non solo i ragazzi della scuola calcio, questa di Renato Naso, ma la Valle del Marro, penso alle varie associazioni, ai gruppi, ai movimenti, a tante persone, anche a tanti sindaci seri, amministratori, che ogni giorno, rischiando spesso la loro vita, lottano per il cambiamento. Questo mi piace sottolinearlo. E proprio per questo credo che la presenza della nazionale qui a Rizziconi abbia un significato particolare, perché vuole essere un segnale di incoraggiamento per i giovani, vuole essere un segnale di incoraggiamento per tutte queste persone che si stanno sporcando le mani, vuole essere un segnale di incoraggiamento per tutti. E poi credo che quel giorno a Rizziconi ci saranno anche delle presenze significative, oltre ai ragazzi della Valle del Marro e ai ragazzi della scuola calcio, ci saranno alcuni familiari di vittime di mafia. In modo particolare ci saranno i genitori del piccolo Dodò. Era un bambino che, spensierato una sera di giugno a Crotone, giocava con i suoi amici, ma è stato ucciso in un agguato mafioso che non era rivolto a lui. E allora credo che il 13 novembre a Rizziconi possiamo veramente intrecciare sullo stesso filo la memoria e il riscatto, la memoria di queste persone che hanno dato la loro vita, ma il riscatto da parte dei loro familiari e di tutti coloro che vogliono bene questa terra. Don De Masi, l'andrangheta si è fatta più sentire intorno a quel campetto? Intorno a quel campetto diciamo no, si è fatta sentire invece per esempio sui campi confiscati alla cooperativa Valle del Marro, si fa sentire spesso con minacce velate molto serie nei confronti di alcune persone che giochiamo in prima linea questa battaglia, perché credo che l'andrangheta in questo momento in un certo qual modo si sente disturbata. I segni del cambiamento per la mafia sono un disturbo, loro incominciano a capire che stanno perdendo terreno, noi togliamo loro il terreno dai piedi e questo loro fa paura, perché per loro oltre che la ricchezza è importante il consenso. Se noi togliamo il consenso da questo territorio, l'andrangheta rimarrà solo un qualcosa che va sconfitto con la repressione, quindi rimarrà solo l'ala militare dell'andrangheta e loro si preoccupano di questo. Don Pino, attendo con curiosità l'incontro con Cesare Prandelli, un CT e un uomo che si dimostrano pieni entrambi di buon senso. Cosa si aspetta da questo incontro con i suoi ragazzi, con i vostri ragazzi, e quali parole possono arrivare dal CT e dagli azzurri? Sì, ma io credo che più che le parole sono i fatti, è la loro presenza che è importante qui. Già aver accettato anche Gattuso di essere qui è un segno molto importante, perché la loro presenza incoraggia tutti noi, così come incoraggia tutti noi la presenza dei tanti ragazzi che in questi anni stanno scendendo durante l'estate per lavorare sui terreni confiscati con i campi di lavoro di estate liberi. Io credo che quell'unità d'Italia di cui celebriamo i 150 anni si realizza meravigliosamente, si realizzerà domenica 13 a Rizziconi, dove tutta l'Italia è attorno a questi 120 ragazzi della scuola calcio ed è attorno a tutte quelle persone, organizzate o non, che in questa terra lavorano per il cambiamento. Più che le parole, per me sono importanti i fatti, e i fatti principalmente è la loro presenza qui. Senza dimenticare poi Don Pino che Gattuso, Perrotta, Iaquinta, nell'Italia anche loro. Nell'Italia campione del mondo c'è un bel pezzo di Calabria. Sì, sì, appunto. Anche quello è molto positivo. Ecco però che loro prendano coscienza di questo e si mettano in gioco seriamente, si sporchino non solo i piedi ma le mani, mi sembra molto importante in questo momento. Don Pino De Masi, un grande in bocca al lupo da Bordocampo e da Radio 24. Crepi il lupo e camminiamo uniti, perché uniti possiamo sconfiggere tutte le mafie. E uniti possiamo far gol anche sul campetto di Rizzigoni. Sì, quindi con uno slogan diciamo: questa partita giochiamocela tutti e fuori gioco mettiamocela 'ndrangheta. Assolutamente da sottoscrivere. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie. A bordo campo. Quali sono i tuoi sport preferiti oltre al calcio? Beh, i miei hobby preferiti sono la Thai box e la kickboxing. Così rispondeva recentemente Super Mario Balotelli in un'intervista tramite Twitter al sito del Manchester City. Beh, insomma, questo hobby così particolare di Super Mario ci ha spinto a noi di A Bordo Campo ad andare a cercare di capire un po' di più di queste due discipline, Thai box e kickboxing, che tanto seguito stanno avendo anche tra i praticanti non illustri come il centravanti del Manchester City e della nazionale. Allora, camminando per Milano ci siamo imbattuti nel Champions Cove, un ristorante che è anche la tana di quello che non esito a definire un apostolo della kickboxing in Italia. Il campione di cui parliamo oggi è Vic Antico, campione proprio di kickboxing e grande profeta di questa disciplina in Italia. Benvenuto Vic qui a Bordo Campo. Grazie a tutti gli ascoltatori. Allora Vic, innanzitutto come mai a Milano per un'iniziativa particolare anche per propagare la kickboxing e la conoscenza di questa disciplina, vero? Sì, assolutamente, perché talmente la richiesta oggi come oggi della kickboxing in Italia, ho riattivato tutte le mie conoscenze, parliamo anche degli anni 80, anni 90, che mi hanno chiesto di rientrare nel furore di questa disciplina. Ho organizzato per tantissimi anni grandi eventi, anche piccoli eventi, anche per i dilettanti. Campione del mondo di pesi super welter, medi, super medi, hai combattuto negli Stati Uniti e praticamente in tutta Europa, insomma, sollevare quella cintura bisogna darne di botte, eh? E anche prenderle, perché non si sale solo sul ring per colpire, ma purtroppo c'è anche l'avversario che dice la sua. Perciò abbiamo fatto belle cose, ho fatto delle cose ottime e ringrazio sempre questo sport per l'opportunità che mi è stato dato per mettermi in luce. Continuo a dare molto a questo sport, mi dà sempre tanto. Ecco Vic, disciplina particolare la kickboxing che ha molto seguito tra i giovani, e l'esempio che citavamo di Super Mario Balotelli è solo il più eclatante. Quali sono i punti di forza di questo sport anche sotto l'aspetto della preparazione fisica, perché poi è un argomento che nel corso della chiacchierata andremo ad affrontare. Hai toccato proprio un punto cruciale della kickboxing, la preparazione. Quindi molto preparazione mentale, soprattutto fisico in una maniera eccelsa, e devi essere pronto a tutto, a un grosso sacrificio, perché la kickboxing, come la Thai boxing, come il pugilato, è un grosso sacrificio che ti devi mettere in mente, che quando entri in questo mondo qui sono più i sacrifici che devi fare per ottenere il minimo. Tra l'altro qua nel Champions Cove ho visto tante delle tue memorabilia, cavigliere, guantoni, foto che ti ritraggono sul ring. Ecco, c'è un match in particolare che ha segnato la tua carriera? Ci sono due match addirittura. Il primo perché ho perso, lì mi sono rifatto alla grande. Ho perso davanti al mio pubblico di Roma, sono rimasto con la bocca amara per almeno 6 mesi. Ho rivisto quel match minimo 300 volte per capire dove ho sbagliato. Capito il sistema di affrontare questo atleta francese, Jean-Luc Hamelin, l'ho riaffrontato battendolo alla grande. Il match che mi ricorderò a vita, ovviamente, a Tel Aviv, contro Zaki Zayas, il primo titolo mondiale che ho vinto fuori dall'Italia. E mi era stato dato questa opportunità di andare in Israele l'ho presa al volo, anche perché il campione in carica non voleva uscire dall'Israele perché temeva per la sua incomunità. Quando sono arrivato in Israele, lascio perdere quello che ho visto e quello che c'era, parliamo del 1993, quindi c'era proprio un conflitto totale in quel momento. Con la cattiveria agonistica giusta gli ho portato via il titolo e lo sono conservato. Oggi sei anche impegnato nell'insegnare kickboxing, no? Abbiamo detto, anche in una palestra doc a Roma. Quello che mi colpisce è anche il boom di questo sport per il pubblico femminile, per le praticanti donne che si avvicinano a questa disciplina. Ecco, tu che lavori tutti i giorni in palestra con molte di loro, come mai? Qual è da dove nasce questa fascinazione? Ma secondo me la donna oggi come oggi vuole sempre stare a pari dell'uomo. E a volte riesce anche a superarlo in determinate occasioni. Il grosso exploit delle donne che vanno nel kickboxing è stato forse chiamato in causa la voglia di difendersi, la voglia di girare per strada consapevole che possono difendersi e possono chiaramente eliminare un pericolo. Quindi questo è il grosso richiamo. Poi tutto il lavoro aerobico, tutto il discorso tecnico va in secondo ordine. Allora, io cito sempre questa ragazza, Sandra, che saluto con tanto affetto, che è una grandissima atleta, e ti dico che mena più di un uomo. Ragazza, 25 anni, mingherlina, tranquilla, e però quando sale sul ring ha delle botte da uomo. E tanti ragazzi, quando io chiamo i ragazzi il venerdì sera e saliamo sul ring, facciamo un po' di scambi, e nessuno vuole fare i guanti. Devo fare i guanti io con lei. Beh, ti crediamo sulla parola e non disturbiamo Sandra, soprattutto se sale sul ring. Ci fidiamo della testimonianza di Vic Antico. Un altro fenomeno interessante, Vic, è quello del fatto che queste discipline come la kickboxing, la Thai box, sono e vengono riscoperte anche in chiave soprattutto della preparazione fisica. Cioè, mentre inizialmente ci si avvicinava a questi sport per combattere poi sul ring, per fare il torneo, per darsene di santa ragione, oggi aumenta anche il numero dei praticanti che alla fine viene in palestra 3 volte a settimana per farsi il bel fisico e poi che insomma si menino i professionisti. Questo è il fenomeno attuale. Se prima c'era questo discorso di agonismo puro, quindi si veniva in palestra proprio perché gli prudevano le mani, oggi come oggi è un discorso prettamente fisico e mentale. E un bel fisico piace a tutti, mettersi in mostra piace a tutti, perciò diciamo il 90% delle persone che praticano questo sport lo praticano per un discorso personale, per avere un miglior aspetto estetico, miglior riflessi, miglior capacità mentale, perché ti aiuta tantissimo anche nel tuo fuori palestra, nella tua giornata quotidiana. Ecco, un'altra curiosità, voi kickboxer vi sentite un po' figli di un dio minore, perché in fondo c'è una cerchia di interesse che però non riesce a conquistare o a riconquistare le grandi platee, soprattutto qui in Italia. Cosa manca a questo movimento o a questa disciplina per diventare effettivamente popolare anche a alto livello, anche a livello televisivo ad esempio? Manca soprattutto i mass media. Questo è il dente dolente di questa disciplina, di questo sport. Sappiamo anche dall'altro, Vic, che sei impegnato anche in questo settore con alcune iniziative editoriali. Allora, Vic Antico, a conclusione della nostra chiacchierata, se Super Mario Balotelli bussa alla tua palestra, porte aperte e guantoni pronti, direi. E paradenti, sempre. Ottimo consiglio per Mario Balotelli da Vic Antico. Intanto noi vi salutiamo, grazie a Vic Antico per essere stato ospite a Bordo Campo e qui a Radio 24 dal suo Champions Cove, dal covo del campione qui a Milano. Grazie a tutti e a presto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo la nostra mail abbordocampo@radio24.it, potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il nostro blog. L'appuntamento come di consueto è per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30 sempre qui su Radio 24. Buona giornata da Dario Ricci.